A Radio Città ti dico solo le ore 15. Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. Eccoci qua, puntuali alle ore 15 di domenica. E quindi cosa succede la domenica? C'è Easy Pop e allora arrivano Franco Paoletti e il Bolognese Volante per irradiare tanta buona musica. Buon pomeriggio a lei. Buon pomeriggio. Oggi, buona domenica a lei. Oggi è puntata numero 11 di domenica 19 marzo. Facciamo gli auguri a tutti i papà, mi sembra giusto. Auguri a tutti papà. E poi a tutti Giuseppe Derivati, Pino e quant'altro. Auguri quindi a tutti Giuseppe Derivati. Perfetto, e allora dovevamo dare riscontro a questa, benissimo, a questa giornata. Si è fatto un gran parlare, no, della festa del papà, bene bene bene. E a questo punto fatti gli auguri e le presentazioni di oggi, 100% di musica indipendente per menti liberi. Cosa facciamo, regia, solitamente la domenica? Cosa facciamo? Ascoltiamo tanta buona musica. Abbiamo selezionato per voi le uscite discografiche di questa settimana. Siamo andati a scartabellare, insomma, le proposte più interessanti a nostro avviso, e quindi siamo pronti per sparare tante buone selezioni musicali, giusto? Giustissimo. E allora, parla come un libro stampato. È vero, sono bravo. Ah, è braverrimo. È graverrimo, vabbè. No, braverrimo, non gra... Allora direi che alle 15 due minuti primi di iniziare a aprire questa nostra puntata, ricordando il 33 180 94 94 per i vostri short message, e poi aprendo le danze con i GAM. Ci presenteranno Come nelle vene, un progetto nato nel le 2001. Vene o nelle vene? Vene, vene. Bene, avrei sbagliato qua, c'è un refuso. La regia ogni tanto, cioè la nostra redazione ogni tanto sì, prende lucciole per la taverna. Questa redazione va rimproverata. Va bene, frusteremo, fustigheremo. Sono esagerato. La nostra redazione. Non si faccia prendere la frusta. Su. No, vada avanti. Però può capitare un errore di digitalizzazione. Sì, vada avanti. Insomma, un errore di battitura. Ecco, esatto, un errore di battitura ci sta. Comunque i GAM ci presentano Come nelle vene, questo progetto molto interessante, direi di ascoltarlo. La certezza e l'intenzione, l'inquietudine. Ma quanto mi piace, mi sono lasciato trasportare da questa musica pop, musica insomma un po', come dire, elettropop, giustamente. I Gam si ispirano in realtà al rock, al Britpop e al pop americano, alla musica classica e a una certa musica elettronica straniera, e quindi questo è il risultato. Il progetto musicale dei Gam nasce nel 2021 dall'incontro tra Andrea Massimo Galderisi, autore, cantante, chitarrista, insieme a Camo Yotaro Brando, autore, anche lui cantante e pianista, che si sono messi insieme, visto che comunque avevano tantissime cose in comune, e hanno partorito questo genere musicale. Complimenti a loro, e a questo punto direi di andare con la prossima regia. So che ci sono stati dei spostamenti, vuole praticamente così intervenire lei? No. No. Adesso abbiamo Ismaele che ci propone Supercar. Dopo Paoletti ce ne parla. Assolutamente. Pronto, Paoletti, vado. Sono qui per questo. Vadi, yeah. Vadi, vadi. Anche dentro un temporale, nell'oceano, nel deserto, su di me potrai contare e parlarne a cuore aperto. Sarà come ossigeno sopra una fiamma, la tua mano sulla spalla, sulla spalla. E tieni saldo questo filo, non lasciarlo. Se hai paura io ti resterò vicino, aspettando un'alba nuova. Dopo un temporale torneremo al nostro bar. Ogni viaggio insieme sarà più breve sopra quella supercar. Se hai bisogno di un rifugio dal male che consuma il mondo, potrai sempre contare sul mio aiuto. Sarai la spada ed io sarò lo scudo. E tra un milione di persone tu mi hai voluto così bene da farmi dimenticare chi in tutto questo tempo non l'ha saputo fare. Sarà come ossigeno sopra una fiamma, la tua mano sulla spalla, sulla spalla. E tieni saldo questo filo, non lasciarlo. Se hai paura io ti resterò vicino, aspettando. Che voce interessante, Ismaele l'avevamo già ritrovato anni addietro, dalla classe 1994, lui è un siciliano. Salutiamo tutta la Sicilia, perché sappiamo che ci sono degli ascoltatori ormai, degli affezionados in quell'isola, e quindi insomma, che dire, buon pomeriggio a voi, visto che comunque insomma c'è il sole, lei lo sa, al contrario no, di qua. Ecco. Io devo pensare qua ai bottoni, ne ho già abbastanza. Certo. Ci mandano un saluto su WhatsApp, Elena, sì. Alberto, un salutazzo, anzi specificatamente, da Elena Alberto in hangover da letto. Grazie, ah, ricambiamo, quindi beh, perché no, insomma la musica si ascolta anche a letto, perché no. Allora, dicevamo di Ismaele, classe 1994, nasce a Vittoria e non è nuovo appunto ad uscite discografiche, tra cui insomma lui deve tantissimo a Beppe Vessicchio, l'avrebbe mai detto? Il famoso insomma il famoso direttore d'orchestra che vediamo sempre a Sanremo, gli ha dato una grande mano. E a questo punto invece noi facciamo un passo un po' indietro, parliamo di un'autrice raffinata, una delle poche cantautrici che noi conosciamo, a cui vogliamo bene, una voce davvero inconfondibile. Stiamo parlando di Grazia Di Michele, che ritorna con un singolo molto particolare, si intitola Dalle parti del cuore. Lei è appunto Grazia Di Michele, questo è il suo ritorno, ascoltiamo. Forse è solo paura dei tuoi occhi profondi che sa leggere dentro ogni mia verità. Forse è solo paura anche delle tue mani, calamite leggere sulla mia gravità. È una vile difesa questa storia sospesa tra la tua tenerezza e la mia fragilità. Ma se passi dalle parti del cuore mi troverai lì, in attesa che arrivi il coraggio per dirti di sì. Perché in fondo è più facile amare che lasciarsi amare, non sapendo mai dove si cade e dove si va. Ma se passi dalle parti del cuore mi troverai lì, in attesa che passi il coraggio per dirti di sì. Perché in fondo è più facile odiare che lasciarsi amare, e rischiare di mettersi a nudo col freddo che fa. Io so leggere i segni, io so leggere i sogni nella debole rete della disarmonia. Ma non vengo a cercarti e continuo a partire affinché ogni pensiero mi allontani da te. È una pace bugiarda quella che mi circonda. Grazie a Di Michele, dalle parti del cuore a Radio Città Fujiko, Easy Pop. Sensibilissima. Puntata numero 11 di domenica 19 marzo. Siamo in diretta, che vi parla il bolognese volante. E anche Franco parte. Paoletti. Volevo aggiungere grazie a Di Michele. Insomma, questo è il suo nuovo singolo dopo un tour fortunatissimo insieme a due splendide colleghe, tra cui Rossana Casale e poi chi c'era, Mariella Nava. Ecco, ritorna alla musica con questo suo singolo da solista, una raffinata bravissima cantautrice che è, secondo me, è poco valorizzata, però insomma quando hai queste ballate è bravissima, tra l'altro. Allora a questo punto parliamo ancora di personaggi indie davvero interessanti. Sto parlando di Lorenzo Passamonti, classe 1996, originario di Tarquinia. Il suo nome d'arte in questo momento si fa chiamare Drko. Spero di aver pronunciato degnamente. DRKO. E poi espressamente preso. Salutiamo Amalia Picella, che è già qua. Ah, saluto anch'io, ha fatto un'incursione in studio, evidentemente non ci aveva notato. Beh, è impossibile non notare il bolognese volante con questo maglioncino. Complimenti, un bel maglioncino a mo' di fanale. Dicevamo, riprendiamo il tutto, preso appunto questo nome Drko, un personaggio che praticamente lo conosciamo, Donnie Darko, vero? È il protagonista di un film stupendissimo e generazionale. Bene, si è riappropriato di questo nome perché è stato suggerito dalla sua collaboratrice nonché produttrice Marta Venturini, è la nostra Mara Maionchi dei 2020, insomma. Bene, io ho fatto un gran minestrone, direi di ascoltare la musica e poi magari vi faccio un riassunto. Sapevi un po' di sbaglio, io di amore mi sto guaio. Colpevoli non giuravamo, mai non mi ricordo neanche più le password. Prendevo le strade d'Italia, metà vodka, metà acciaio. Mezzi armati o mezzi nudi, noi siamo due tossici senza guinzaglio. E questo cielo azzurro sembra sempre meno blu, come le draghe che prendi tu, che fanno i tuoi. Dov'è tua madre, contenti voi? E da piccolo io mi specchiavo dentro alle TV per fare un film coi déjà vu. Già c'eri tu, già c'eri tu. Tu lascia parlare me, che giuro ne ho bisogno, che a questo punto sono pronto anche a fare la guerra, che che la pace ci ha fatto solo danni, giuro. Ti nascondevi sotto al letto, che a questo punto non è solo un gioco ma una cura. E la pace ci ha fatto solo danni, giuro. E la pace ci ha fatto solo danni, giuro. E la pace ci ha fatto solo danni, giuro. Perché non è il caso, io sono la goccia che non è nel vaso. Quante direzioni abbiamo perdonato, quante paranoie stiamo soffocando. Tiro la medaglia e tu sei all'altro lato. Sono già caduto, mi sono rialzato. Ho dato pugni al muro per, ho dato pugni al muro per te. E questo cielo azzurro sembra sempre meno blu, come le draghe che prendi tu, che fanno i tuoi, dov'è tua madre, contenti voi. E Drco è una previsione di Darco, sicuramente con Guerra. Esattamente, un po' come, non so, il codice fiscale, vanno via le vocali. E quindi allora, il suo primo EP realizzato in coproduzione, come raccontavo, con Marta Venturini, racconta dei sentimenti come la FOMO, ovvero sia la depressione e le incertezze del proprio futuro. Lorenzo Passamonti in realtà aveva già collaborato addirittura con il fratello e aveva già, come dire, ha bruciato le tappe, aveva già oltre che studiato musica alla St. Louis College of Music di Roma, aveva già avuto un piccolo progetto col nome Giraffe e poi ha già girato, insomma, anche l'Europa, per poi riprendere in mano proprio la sua così situazione e rigenerarsi con il nome di Verco, come avete ascoltato il brano Guerra. Bene, detto ciò, regia, possiamo voltare pagina. E che cosa abbiamo in questo punto sul adesso piatto abbiamo numero un altro nome bellissimo, Lupo Fiume Leggenda, che ci canta Troppi Anni. Dopo Paoletti ce ne parla. Cazzo, preso il varco della ZTL, la corsia dell'autobus contro mano in via della Repubblica. Addosso, sento freddo giù fino alle ossa, dai che la gente giudica. Diranno in giro che sei esagerata, che sei un'invasata. E domani fine settimana scenderemo in strada per farla pagare quelli dei banchetti fuori dalla Conad, che mi chiedono i soldi per dire di no alla droga. A te. Sono troppi anni che dico di sì a te, mentre io sono anni che dico di sì a te. Cazzo, ho messo benzina al posto della nafta, il benzinaio dopo la rotonda, che vita gioconda. Rabbia addosso, se in ritardo faccio quel che posso. E poi la gente stupida, stupida, stupida, stupida. Sei delicata. E domani fine settimana scenderemo in strada per farla pagare quelli dei banchetti fuori dalla Conad, che mi chiedono i soldi per dire di no alla coca. Mentre io sono anni che dico di sì a te, sono troppi anni che dico di sì a te. Mentre io sono anni che dico di sì a te. E allora guarda, guarda, vado in Sud America, e a vedere se almeno lì quest'anno ne dicono. Che da troppi anni che mi serve il metadone. Allora, nome Lupe, Lupo Fiume Leggenda, brano Troppi Anni. Esattamente così, Lupo Fiume Leggenda è stato un gruppo attivo da 2016 al 2021. Poi cosa è successo? Che la band si è sciolta, ce lo dice anche Luca Carboni, le band si sciolgono e quindi uno dei componenti, nella precisione Nico, ha deciso di ricominciare a fare musica mantenendo proprio il marchio che insomma di cui faceva parte anche lui. Quindi LFL riparte poi proprio da qui, dal marchio, non c'è più la band, ma gli ingredienti poi sono gli stessi di sempre. L'influenza appunto della provincia dalla quale Nico appartiene e poi tanti sentimenti e così i racconti della quotidianità giornaliera e tanti altre piccole crisi, racconti di crisi e di quant'altro. Questo è l'ingrediente appunto di della musica appunto di Lupo Fiume Leggenda. È fondamentale per lui è stato l'incontro con Emanuele Santosa, bassista dei Segreti, e adesso gli fa da autore produttore per questo nuovo EP che si intitola Dialoghi Italiano. Bene, questo è quanto per quanto riguarda questo nuovo, insomma, personaggio nuovo relativamente, appunto, Lupo Fiume Leggenda. La loro storia continua con una sola persona. A questo punto noi cambiamo pagina, regia, vero? Come sempre. E chi abbiamo? Abbiamo Brando Madonia con le Particelle Elementari. E dopo vi racconto di lui. Speso tutto in creme solari e piove da due mesi, ho quattro paia di sorrisi, qualche faccia distratta e non mi serve altro. È tutto bene quel che non finisce mai o che finisce bene solo per finta. La mia paura è la paura di finire le paure e concentrarmi sul resto. Sono quello che non chiami da un anno. Cosa c'è? Perché me? Le elementari sono in fila alle poste per chiedere un rimborso. Ho quattro scheletri, due giacche in un armadio nascosto e non mi serve altro. È tutta scena questa cena tra chi c'entra e chi fa finta di non esserci affatto. Ho detto basta e basta poco per produrre un bastimento di rimpianti per anni. Cosa vuoi? Brando Madonia, le Particelle Elementari. Esattamente così, devo dire che essendo alle prime armi per quanto riguarda la canzone, Brando ci prende. Lui è figlio d'arte, ha dato poi diverse ha dato vita a diverse formazioni dal 2012 in poi, e poi è arrivato anche alle storie del Festival di Sanremo Giovani e poi si affaccia appunto al così alla musica nazionale, soprattutto grazie a come dire, anche a colonne sonore, a produzioni molto interessanti, fino a decidere di di cantare da solo, spronato anche da Carmen Consoli e naturalmente la grande Carmen Consoli, certo, e da tutti gli amici che ruotano intorno agli studi catanesi. E che dire, che questo è il risultato, il suo nuovo singolo che insomma piace, è molto particolare e devo dire quella leggerezza che contro contraddistingue anche le canzoni di Luca Madonia, suo padre. Quindi, come vedete, anche gli artisti, insomma, respirano ai figli d'arte, respirano appunto musica dai loro padri, e poi insomma restano un po' nell'ambito musicale, e ci fa immensamente piacere, perché insomma questo pezzo è incredibile. Bene, a questo punto, dopo Brando Madonia di questa prima parte, Paoletti, chi abbiamo? Abbiamo, viene a trovarci Linora con Anche Meno. Tu mi dici anche meno, anche meno, anche meno, ma l'oroscopo è sincero, sincero, sincero. Se non sei compatibile, allora ti evito. Esco di casa se prima non leggo l'oroscopo, e non ti chiedo scusa se non me lo dice l'oroscopo. Evito giorni, no, mi chiedi come sto. Chilling on the floor, mi inviti a uscire la sera, chissà se ne vale la pena. Più sobria con la scollatura, mi sa che lo chieda la luna. Le stelle dicono un momento d'oro, sole e mercurio nel segno del toro. Nel cuore l'istinto è più anarchico. Tu mi dici anche meno, anche meno, anche meno, ma l'oroscopo è sincero, sincero, sincero. Se non sei compatibile, allora ti evito. Sole e stella a favore, mi illumino, gravito. Anche meno, anche meno, anche meno, ma l'oroscopo è sincero, sincero, sincero. Linora, anche meno. Mi piace questo ritmo tribale, no, che rimane per Eleonora Salesina. Linora è un'interprete nata ad Aprilia e praticamente si è già data da fare nel mondo sia del ballo, del canto, della recitazione, tant'è vero che è stata presa e comparsa in The Bodyguards nel 2017, poi via via, insomma, grande esperienza teatrale. Non solo, anche per lei si aprono le porte, mi sembra, del DAMS, e che dire, insomma, che ha già lavorato con diversi personaggi, tra cui chi c'è, Brignano, e chi ancora, tanti tanti altri, non sto a raccontarli tutti. Dopo il singolo d'esordio Dal tramonto all'alba è uscito questo nuovo singolo che abbiamo ancora in sottofondo, e come dico io sempre, se sono rose fioriranno. A proposito di rose e di fiori, noi piccolo break pubblicitario, perché sono le 15:30, rientriamo veramente fra pochissimo, quindi non andate via e continuate con i vostri short message. Non andate via, che vi aspetta una seconda parte interessantissima. A N-World, traiettorie della galassia afroamericana, arriva lo sport. Giovedì 23 marzo alle 20, in via Sant'Isaia 20, nuovo appuntamento della rassegna dell'Istituto Parri. L'autore, regista e interprete Federico Sacchi e Carlo Babando partiranno dalla storia del cantautore carioca Georges Ben, che immortalò il calcio brasiliano attraverso le sue canzoni, per raccontare il legame tra lo sport e la cultura nera del Sud America. A seguire DJ set di William Piana di Radio Città Fujiko. Per info, redazione @istitutoparri.it. Sai qual è la novità? Da oggi puoi avere l'esclusiva Fidelity Card dei centri di terapia ionoforetica. Informati presso le segreterie del centro oppure chiama subito lo 051 314 0488 per attivarla. Ionoforetica Fidelity Card. Entra nel club della salute. Puoi recarti ai centri di terapia a Bologna in via Lemonia 47 oppure a Castelmaggiore in via Gramsci 211. Direttore sanitario dottor Francesco Comerci. La fisioterapia è una cosa seria, necessita di attrezzature all'avanguardia e di professionisti con una grande passione per la vostra salute. Noi del Poliambulatorio Descovich lo sappiamo bene. Abbiamo un'esperienza di 60 anni e siamo stati i primi a Bologna ad occuparci di fisioterapia. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, traversa di via Lame, facilmente raggiungibili anche in autobus. 051 649 4501 o prenota comodamente online dal sito, saltando il centralino e a qualsiasi ora su www.descovich.it. Direzione sanitaria dottoressa Benedetta Descovich. Potremmo parlarvi dei materiali ricercati e durevoli, della linea e della forma dei nostri arredamenti, ma preferiamo raccontarvi come ci piace rendere la vostra casa unica e disegnata intorno a voi. Bertocchi Arredamenti, una grande passione per l'arredo dal 1964. Personalizziamo ogni vostro ambiente con falegnameria interna per adattare ogni arredo ai vostri spazi, con assistenza post vendita sempre presente e con i migliori brand nazionali come Stosa e Moretti Compact. Bertocchi Arredamenti è in via dell'Intagliatore 15 a Bologna e su bertocchiarredamenti.com. Bertocchi, ogni mobile, una storia. Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. Eccoci, l'ho vista che mi ha guardato, mi ha fulminato. Sì, siamo in onda alle 15:33 minuti primi, rientrando appunto dalla nostra reclame, passiamo in quello che è ovviamente la seconda parte di oggi, domenica 19 marzo. Nuovamente auguri a tutti Giuseppe, Pino e tutti i derivati, e soprattutto buona festa del papà, per chi è papà, per chi lo fosse. Allora, siamo in quel che è la seconda parte di tanta buona musica, e poi si sa, dopo il post Sanremo sono usciti veramente tantissimi autori, proprio per non essere così travolti dalla vagonata e dall'ondata ovviamente sanremese. Quindi velocemente andiamo a presentarvi la prossima, da appannaggio di Ippolito, personaggio che già ben conosciamo insomma nel mondo indie. Ci presenterà il suo nuovo singolo dal titolo Ribelle, eccolo qui, Ippolito. Ti sei mai chiesto perché il mondo va così? Costretti da un padrone a dir sempre di sì. La politica fa retorica senza logica. Se ti vuoi prendere le cose che non hai, devi cercare di essere quello che non sai. La curiosità si riaccenderà con la verità. Se tu sei ribelle, nel cuore sulla pelle, potrai far quello che vuoi tu. Saprai pretendere di più se tu sei ribelle. Se ti vuoi dare una risposta che non c'è, devi trovare un senso a tutti i tuoi perché. La felicità ti sorprenderà con la libertà. Se tu sei ribelle, nel cuore sulla pelle, potrai far quello che vuoi, saprai pretendere di più se tu sei ribelle. sei ricette, nel cuore sulla pelle. Potrai far quello che vuoi tu, saprai pretendere di più se tu sei ribelle. Se tu sei ribelle, nel cuore sulla pelle. Saprai pretendere di più se tu sei ribelle. Ippolito! Sia tranquillo, l'ho visto quello... così partire. No, va bene, volevo solo sono i segnali di rito dei registi. Sì, cioè, no, va bene di nuovo. Ero preso dalla canzone ribelle, questa chiusura molto pompata, molto così, molto virulenta. Per Ippolito Ribelle, lui è una specie di Diodato. Basta solo il pezzo giusto e magari dall'oggi al domani diventa un big. Ma per lui ci sono diversi album al suo attivo. Tra l'altro, nell'ultimo album invece vi segnalo una bellissima e fedele copia della cover di La Notte dei Pensieri, il tributo a Michele Zarillo che ha fatto recentemente. E lui, insomma, è un coautore molto moderno nella capacità di scrittura, che sa strutturare la forma canzone, e devo dire molto apprezzato soprattutto appunto per i testi. Complimenti a lui, e sicuramente anche per lui arriverà un grande momento. Un grande momento a questo punto è per la prossima d'appannaggio di Tonels, che recentemente lui e la sua band si sono esibiti al Caffè Letterario a Roma. Lei conosce, vero, regia, il Caffè Letterario? L'ho portata io al Caffè Letterario ed è una mia amica la proprietaria. Si ricorda? Io a Roma? Nego tutto, parlerò solo in presenza del mio avvocato. Va bene, lei nuota sempre controcorrente. A questo punto, insomma, ho dei vaghi ricordi, devo sedimentare. Va bene, allora, dopo la canzone Tonels ci presenta Ci sono momenti. Ci sono momenti in cui pensi di essere tu a non capire. Ti confronti con gli altri, li ascolti, ma non riesci più a sintonizzarti. La tua mente vaga nel mondo senza trovare uno spazio profondo in cui entrare e trovare quella voglia di vivere che a volte ti lascia da solo. Ci sono momenti in cui senti la voglia di ricominciare, ribaltare la vita, alzare la testa e trovare una strada che ti porti ad un mare diverso, ma hai paura di decidere di andare. E allora resti, ma soffri e non riesci più a giocare. Tonels, ci sono momenti. Vi ricordo che siete all'ascolto di Easy Pop sulle frequenze dei 103.10 di Radio Città Fujiko, una trasmissione di musica indipendente italiana. Già, è benessere. Passare un'oretta in allegria. Sì, è benessere così precisi, perché insomma magari c'è qualcuno che ci segue in macchina e quindi sta passando e ascolta il nostro segnale. Voglio ricordarvi che potete poi seguirci sui social, ovviamente, come le maggiori radio. Quindi torniamo a parlare di Tunnels. Nasce artisticamente come cantautore circa 3 anni fa, ma poi insomma si avvale della collaborazione di altri artisti, quindi è un personaggio solista, però è anche affiancato da una band, quindi insomma c'è questo sforamento, quindi non sappiamo se appunto presentarlo come band o come cantautore. Glielo chiederemo magari prossimamente e prenderemo contatto magari con lui, però insomma lui ha un debutto veramente col botto, perché sono 50.000 streaming su Spotify appena è uscito il suo singolo nel 2021 dal titolo Bivio, e poi diverse esperienze, diverse così occasioni gli danno tanta visibilità fino ad arrivare a licenziare qualcosa con Spotify, e devo dire che entra direttamente nella classifica indie Spotify, ed era la scorsa estate se non sbaglio. E adesso c'è questo nuovo singolo per lui per appunto questa primavera estate, che insomma ci speriamo molto bene. È in effetti una bella ballata che rimane, vi ricordo il titolo, Ci sono momenti. A questo punto invece andiamo, regia, con Simone Pittarello, Di miele di furia. Siamo al contempo polvere da sparo e fuoco, l'uno per l'altra, sai, rischiamo di svanire nell'abbraccio dolce e furioso di noi, svanire l'illusione di separazione prima del momento in cui la fine della notte ed il sorgere del giorno si ingannino a vedersi due. Sai, di miele di furia, desiderio e paura di caderti dentro fino a perdere centro alla fine della notte e il nascere del giorno che si incontrano per un momento. Si incendierebbe una volta per tutte, senza possibilità di salvezza, ciò che resta dell'idea di noi. Ed ancora sarebbe poca cosa, paragonata alla sete mia, di estinguere la fame tua, che confessarsi ancora non osa. Sai, di miele di furia, desiderio e paura. Dentro fino a perdere centro la fine della notte e di nascere del giorno che si incontrano per un momento rassicura e inquieta. Simone Pittarello è un polistrumentista padovano, inizia la sua attività di musicista alla fine degli anni 90 come turnista e docente di batteria, per poi dedicarsi dal 2005 alla composizione di brani inediti come autore e compositore SIA. E questo è il suo singolo per quanto riguarda l'ultimo suo album, perché ha già inciso alcuni album. Questa è l'anteprima appunto di quello che ascolteremo questa primavera. Detto ciò, regia, ve lo velocemente andiamo. Cosa vedo? Cosa è un grandissimo ritorno di due band in una. Possiamo dire così? Due band indie in una. Che qua ho sbagliato a giusto? Per fortuna che me l'ha detto. Sì. Sono due band in una cantano tutti insieme questa canzone che si chiama Nella Stasi, vero regia? Yes, it is. E allora rimanete fermi lì e ascoltate e godetevi questo bellissimo pezzo. succeda qualcosa, sono fermo e immobile da giorni, mesi, anni, ancora nulla, non accade niente che mi dia la forza, una chiave di lettura, una svolta definitiva per capire nuovamente e ricominciare. Visione che nasce, mi passa la testa e cresce, matura, si espande su di me con forma assurda. Visione che nasce, mi passa la testa e cresce, matura, si espande su di me con forma assurda. Raffinare per sentire vivo uno scopo, non posso farne a meno. Visione che nasce, mi balza nella testa che cresce, matura, si espande su di me con forza assurda. Visione che nasce, mi balza nella testa che cresce, si espande su pieno d'onda assurda. Una sospensione troppo lunga, infinita, che non fa bene. Ah, ma chi è che canta? Gli anni 80 non più 80, suonati nel 2020. Stiamo parlando 2023. Di 2023, beh certo, insomma stavo pensando al decennio, ovviamente alla decade, perché i Fermo Immagine già hanno approfittato un po', no, degli anni 80, così ritornando all'elettronica, hanno approfittato anche del featuring dei Delenda Noia, che si ispirano proprio, una band appunto di oggi che si ispira proprio agli anni 80 che furono, hanno utilizzato per far ciò lo studio di Gianluca Lopresti. Lui arriva direttamente dagli anni 80, è una grande artista che ha messo poi a disposizione il suo studio, e poi tra l'altro un grande fan di Battiato, se non sbaglio, e quindi qua ci sta tutto, no? Quindi c'è tutto questo combo, questo brano molto elegante, lo definirei. Questa factory che insomma hanno sfornato nella Stasi, il pezzo che stiamo ancora ascoltando in sottofondo, Delenda Noia, sono ritornati insieme ai Fermo Immagine, ci fa immensamente piacere. Un brano molto elegante. È molto elegante, molto anni 80, e si sente nel suono. Complimenti, guarda, io sono quasi commosso. Adesso si commuoverà definitivamente con chi canta dopo. Allora. A proposito di anni 80, beh, a questo punto mi sciolgo, come si suol dire, vado via, perché annuncio qui ufficialmente il ritorno di Garbo alla musica con un'anteprima che abbiamo solo noi, sottolineo, l'artista Garbo ha voluto regalare proprio questa emittente, quindi un'anteprima, proprio perché ci tiene, perché conosce la serietà di questa emittente, ci ha fatto questo regalo come anteprima. Ascoltiamo il brano che uscirà fra qualche giorno come anteprima e in tutte anche le altre radio, e poi l'album. Quindi ci presenta Come pietre, questo è il nuovo singolo di Garbo. Thank you. silenziosa, è solo un grido infinito. Grandissimo garbo. Assolutamente sì, forse uno dei così maggiori così cantautori da così rivalorizzare e riascoltare, e non per niente poi apriva proprio così le tournée di Franco Battiato negli anni Ottanta. Battiato si accorse subito di lui. Come pietre, questo è il nuovo singolo tratto dall'album Nel Vuoto, in uscita il 21 aprile, attenzione, il giorno del compleanno di Garbo. Che dire, che praticamente sarà un album davvero strepitoso, molto denso anche di contenuti, non per questo appunto leggero come musica. Quindi sarà molto riflessivo, un album in cui tutta la stampa nazionale è molto curiosa, è interessata e sta attendendo veramente, perché questa è l'anteprima ed è insomma niente male, devo dire che la critica insomma ha grandi aspettative, anche noi. Quindi ringraziamo assolutamente Garbo per questa fiducia che ha dato a Radio Città Fujiko per questa anteprima. E che dire, che a proposito di uscite discografiche, abbiamo anche Gazzelle, ci presenta Idem. Quando fa un sacco di errori, gli altri tutti campioni, e se ti viene ad urlare tranquillo è normale, se si spegne la luce tu lo sai che è solo un interruttore. E ho ritrovato me stesso da solo in un cesso, davanti allo specchio ho capito che tutto si intreccia, alla fine si spezza, ma se non si spezza hai ragione te, che a tutte le notti che faccio le tre e fare cazzotti per stare con te, e tu ammazzeresti per stare con me, è assurdo ma anch'io, idem. E se il mondo finisse domani, se arrivassero gli americani, io vorrei stare con te sotto le bombe con te, mentre mi sparano e se arrivassero mille tsunami, se tornassero i tirannosauri, io vorrei stare con te, anche sott'acqua con te, mentre ci mangiano. Quando sei al buio lì fuori, gli altri tutti lampioni, ma lo sai che è solo un generatore. E ho immaginato me stesso volare dal tetto, ma steso su un letto ho capito che tutto si ingrossa, alla fine ti strozza, ma se non ti strozza hai ragione te, che tutta la vita che parlo di te, pure quando aprivo e staccavo le tre, e tu moriresti per stare con me, è assurdo ma anch'io, idem. E se il mondo finisse domani, se arrivassero gli americani, io vorrei stare con te sotto le bombe con te, mentre mi sparano. Gazzelle, idem, singolo appena uscito venerdì, cioè ieri l'altro, pardon. Sì, una realtà per quanto riguarda il nostro cantautorato, soprattutto fra i giovanissimi, più che appunto le generazioni un po' più verso gli anta. Esatto, però insomma diciamo che per lui si attende la consacrazione vera e propria, perché dopo aver calcato negli ultimi 6 anni tutti i palchi di Roma, Gazzelle arriverà in quello più importante, quindi sarà la consacrazione definitiva e forse avremo finalmente, come dire, noi della generazione Anta, vedremo proprio la faccia, capiremo chi è. Il 9 giugno si esibirà allo Stadio Olimpico, l'unico grande concerto che lo vedrà protagonista per quest'anno, appunto Gazzelle, e so già che è tutto sold out, però tuttavia insomma vedremo alcuni passaggi televisivi per quanto lo riguarda, ed è ormai un mito insomma questo Gazzelle. Detto, bene, ciò. Bene. Detto ciò, abbiamo l'ultimo brano. Ah, è già finita, regia. Mi stavo divertendo, mi stavo giusto scaldando, beh, perché oggi gli studi sono un po' freddi, ne vado a dirlo. 25 gradi, quanto vabbè. Ne vuole? Perché lei ne vorrebbe 30, vabbè. Vabbè, io sto pensando all'estate, alle spiagge. Arriverà Paoletti, arrivi l'ultimo brano. Adesso qui è un po' lungo. Andrea Belli, Dave, sì. Roy Bland, sì. Carol Diak, All, sì. Night Drinks. Qui è un brano dance. Paoletti danzare. Mi sembra di stare allo studio 54. No, vabbè, non ero troppo piccolo per lo studio 54, ma insomma qualche club degli anni 90 sicuramente, con questo pezzo fortissimo, All Night Drinks. Tutto nasce, no, con un martini, con un drink, come il Campari, Baccardi, no? E quant'altro. Nasce così All Night Drinks, nasce dalla collaborazione di Andrea Belli, Dave Roy Bland e Carol Diak, che è la cantante in questo pezzo, che dice Martini, è anche una DJ tra l'altro. Come tutte le belle cose, iniziano appunto con un drink e così hanno mixato questa potente version, che sta ottenendo un grande successo soprattutto nello scaricamento, appunto nei contatti social e non solo. E questo pezzo, ragazzi, è una bomba, è numero uno nei club. Detto ciò, abbiamo adesso facciamo abbiamo cosa, regia? Facciamo partire la pre-sigla. Sente? Questo non è meno da Online Drinks, vero? No, ecco. No. Cominci pure con i saluti, Paolo. Allora, riprendiamo l'ordine e siamo alla chiusura della puntata numero 11 di Easy Pop, insieme a Franco Paoletti, che vi sta parlando, ed è il Bolognese Volante. Ma abbiamo un ospite. Perché dopo di noi, intanto salutiamo tutti coloro che ci hanno ascoltato, li ringraziamo, speriamo di aver fatto passare loro una bella oretta spensierata, in particolare Marzia di Gorizia, Pierluigi di Bologna. Abbiamo Ricky Vicky e poi non so Stefano, giusto? E può poi essere, sì, e tutti coloro che non hanno scritto, ovviamente. Ovviamente. Salutiamo tutti, li invitiamo a rimanere all'ascolto della nostra radio che propone fra una mezz'oretta le corrispondenze di Dani Coraucci. Eh beh. E dopo abbiamo qua Amalia Picella che ce lo dice lei. Finalmente. Meraviglia, grazie per questo regalo intanto, e alle 17 l'appuntamento è su 103.1 con C'era una volta il West, quindi film e le colonne sonore, quindi tutti gli appassionati e le appassionate di cinema sintonizzate e sintonizzati alle 17. Parli di Oscar oggi. Di Oscar, eh sì, dobbiamo commentarli. Allora diciamolo, insomma, tutti voi appassionati di cinema rimanete ancorati sulle nostre frequenze, perché insomma si commenterà un po' del dopo, come il dopo festival, no? Si commentano i vestiti, esatto, le cattiverie che vengono fuori, giusto? Esatto. Che chi che ci darà, insomma? Eh no, ve lo può dire. Eh no, ma un'anteprima. Beh, l'anteprima è che il film per cui ho tifato di più, Everything Everywhere, ha vinto tutto. Ha vinto 7 Oscar e quindi io sono contentissima. Speravo per Paul Mescal, il protagonista di After Sun, che non ha vinto. Però insomma è una grande rivelazione di questi Oscar 2023. Ok, allora prenderemo gli appunti perché molto insomma interessante. Ci darai i consigli di cosa guardare, cosa evitare. Bene, detto ciò, regia. Saluti, bye bye dal Bolognese Volante. Da Franco Paoletti. Buon ascolto da Maglia Picella. A più tardi con A Picella e noi appunto ci salutiamo qui. Ciao. Avete ascoltato il Sip Hop, che vi dà appuntamento a domenica prossima, alla stessa ora, e vi augura un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Città Fujiko. お力だ。